Capitolo 21. Amy e Lori. Prego, signora madre, potreste prestarmi mia moglie per mezz'ora? È arrivato il bagaglio e io ho fatto un'insalata di tutte le belle cose che mi ha portato da Parigi per cercare certi oggetti che mi occorrono. Era l'indomani dell'arrivo e Lori aveva trovato sua moglie sulle ginocchia della mamma come quando era piccina. Oh, certamente, va, cara. Non riesco a ricordarmi che adesso hai un'altra casa, la tua. E Mrs. March accarezzava la piccola mano che portava infilato l'anello nuziale, quasi a chiedere perdono del suo attaccamento di madre che non sa lasciare la figliuola. Non vi avrei disturbato se avessi potuto farne a meno, ma senza la mia mogliettina io non so come andare avanti. Sono come una banderuola senza il vento? Suggerì Joe, mentre Lori cercava il paragone. Joe già aveva ritrovato l'impertinenza di una volta. Proprio così. Amy mi tiene voltato a ovest quasi sempre con qualche raffica ogni tanto verso il sud. Nemmeno una volta da quando siamo sposati abbiamo avuto vento da levante. Il nord poi non so proprio cosa sia, ma in complesso ci troviamo bene, vero mia regina? Tempo ottimo fin qui. Non so fin quando durerà, ma delle tempeste non ho paura, perché sto imparando l'arte di condurre la nave. Vieni, caro, te lo trovo io il tirastivali. Immagino che cercassi quello quando hai rovistato nella mia roba. Sapessi, mamma, che buoni a nulla sono gli uomini. Amy si dava un'aria da signora autorevole che divertiva molto il marito. Cosa farete quando vi sarete sistemati? Chiese Joe, abbottonando il paltò di Amy come faceva una volta col grembiulone. Oh, abbiamo i nostri programmi. Per ora non ne vogliamo parlare tanto perché siamo ancora nuovi nuovi. Ma non abbiamo intenzione di stare oziosi. Io mi metterò negli affari con un'applicazione che farà molto piacere al nonno, il quale vedrà che non mi sono guastato. Sono stufo di perdere il tempo, voglio faticare come un martire. Amy, che cosa farà? Domandò la mamma, lieta della risolutezza di Lori e dell'energia con la quale parlava. Ah, oh, quando Amy avrà fatto tutte le visite e lasciato ammirare tutto il suo ricco guardaroba, vogliamo stupire la gente con l'eleganza e l'ospitalità della nostra casa, la brillante società che vi riceveremo e l'influenza benefica che eserciteremo sul mondo in generale. Dico bene, Madame Récamier, concluse Lori con un'occhiata interrogativa ad Amy. Oh, col tempo si vedrà. Vieni via adesso, impertinente, e non scandalizzare la mia famiglia col darmi dei titoli in loro presenza. Rispose Amy, che aveva intenzione di cominciare con l'avere una casa e in essa fare la buona moglie, prima di avere un salone e troneggiarvi quale regina della società. Come paiono felici insieme coi due ragazzi, osservò il signor March, il quale dopo l'uscita della giovane coppia cercava invano di sprofondarsi ancora nel suo Aristotele. Sicuro, e credo che dureranno, disse la signora March, con l'aria tranquilla e sicura del pilota che ha condotto il bastimento al riparo dentro il porto. Io ne sono certa. Fortunata Amy. Disse Joe con un sospiro, ma poi sorrise, vedendo con che impazienza spingeva il cancello il professor Baer, che giungeva in quel momento. Più tardi, nella stessa sera, Lori, tranquillo perché aveva ritrovato il tirastivali, d'un tratto uscì a dire a sua moglie, mentre questa si affaccendava a riordinare i suoi nuovi tesori d'arte. Signora Lawrence, mio signore, quell'uomo vuole sposare la nostra Joe. Lo spero, e tu? Ecco, senti, per me è un asso, una persona superiore in tutto il senso della parola. Ma preferirei fosse un tantino più giovane e molto più ricco. Senti, Lori, non devi essere troppo esigente e non devi giudicare come giudica il mondo. Se si amano, l'età non conta e nemmeno la povertà. Le donne non dovrebbero sposarsi per interesse, mai. E qui Amy si interruppe. Le ultime parole le erano sfuggite. Guardò suo marito, il quale rispose molto serio e con una punta di malignità. Certamente, però, ci sono tante ottime ragazze che dicono proprio di voler fare così, se la memoria non mi inganna. Tu stessa una volta ritenevi fosse tuo dovere di sposare uno ricco. Questo spiega forse perché hai preso un buon a nulla come me. Oh, bimbo mio diletto, non dire così. Quando ti ho detto così, non ricordavo affatto in quel momento che tu sei ricco. T'avrei preso anche senza un quattrino. Qualche volta vorrei che tu fossi povero per farti vedere quanto bene ti voglio. E qui Amy, che era molto corretta in pubblico e molto espansiva in privato, rinnovò al marito la dimostrazione convincente di ciò che asseriva. Lo credi sul serio? Dimmi che io sono quella creatura interessata che volevo essere una volta. Mi si spezzerebbe il cuore, credi, solo se tu non fossi persuaso che io vorrei vogare nella tua stessa barca, anche se tu dovessi guadagnare la vita facendo il barcaiuolo. Ma che stupido e che bruto. Come mi può venire in mente una cosa simile quando tu hai rifiutato uno più ricco di me e non vuoi accettare da me la metà di ciò che vorrei darti, da me che ne ho il diritto? Si vedono ogni giorno certe ragazze che sposano un ricco, poverette, perché sono state educate nell'idea che quella è la sola via di salvezza. Ma tu sei cresciuta con ben altra scuola. C'è stato un tempo, è vero, che io tremavo per te, ma alla fine non ho avuto la delusione che temevo. La figlia ha tenuto fede agli insegnamenti della madre. Glielo dicevo ieri alla mamma e ne è stata contenta e riconoscente, come se le avessi regalato un assegno di 1 milione da spendere in beneficenza. Ma voi non le ascoltate le mie osservazioni morali, signora Lawrence, disse Lori e si fermò, perché mi gli pareva distratta, sebbene lo guardasse fisso. No, no, ti ascolto, e nello stesso tempo ammiro quella fossetta che hai nel mento. Non vorrei farti diventare vanitoso, ma devo confessarti che sono più orgogliosa di avere un marito bello che di tutto il denaro. Non ridere, ma per me guardarti il naso è un tale conforto. E Emi glielo accarezzava con vera soddisfazione d'artista. Nella sua vita Lori aveva ricevuto molti complimenti, ma nessuno che gli facesse tanto piacere, e lo mostrò chiaramente, sebbene ridesse di quel gusto capriccioso di sua moglie, la quale intanto gli chiedeva con molta serietà: «Ti posso fare una domanda?» «Naturalmente. Ti dispiace se Joe sposa il signor Baer?» «Ah, è questo che ti dà pensiero? Credevo che ci fosse qualcosa nella fossetta del mento che non ti piaceva.» Siccome non sono di quei tali che, oltre a non essere mai contenti, non vogliono nemmeno veder contenti gli altri, perché anzi mi dichiaro l'uomo più felice della terra, io ritengo che potrò ballare alle nozze di Joe, col cuore non meno leggero dei piedi. Ne dubiteresti, mon ami? Amy levò gli occhi e lo guardò. L'esame fu soddisfacente. Ogni traccia di gelosia scomparve ed ella ringraziò suo marito con uno sguardo che era tutto amore e fiducia. Vorrei, disse Lori, che potessimo fare qualcosa per quell'ottimo professore. Non si potrebbe inventare un parente ricco che avesse la buona idea di morire laggiù in Germania e di lasciargli una piccola eredità abbastanza rotonda? Passeggiavano su e giù per il lungo salone, a braccetto, come amavano di fare sovente in memoria del giardino del castello. Joe scoprirebbe la gherminella e manderebbe all'aria tutto. Ella ne è molto orgogliosa del suo professore, così com'è. Anche ieri diceva che secondo lei la povertà è una bella cosa. Ah, non penserà così quando avrà un marito letterato e una dozzina fra professorini e professorine da mantenere. Per ora non ce ne immischiamo, ma aspettiamo l'occasione per beneficarli, loro malgrado. A Joe io sono debitore parzialmente degli studi che mi ha spinto a terminare e lei lo ammette. I galantuomini i debiti li pagano. Vedrai che così la convincerò. Che piacere, eh? Poter essere di aiuto alle persone. È stato sempre uno dei miei sogni poter donare con larghezza e ora, grazie a te, il sogno si è avverato. E ne faremo del bene, è vero? C'è un genere di povertà che a me piace in modo particolare di soccorrere. Per i poveri che stendono la mano c'è chi pensa e provvede. Quelli che stanno male davvero sono i poveri dignitosi, che la mano non la possono stendere e a cui nessuno osa fare l'elemosina. Eppure ci sono tante maniere di soccorrerli, anche quelli, se uno trova il modo di farlo con delicatezza, senza offenderli. Confesso francamente che aiutare un signore decaduto mi fa più piacere che aiutare un mendico. Avrò torto, forse, ma io sono fatto così. Sarà perché è più difficile. È più difficile perché per farlo ci vuole un vero signore, concluse l'altro membro della società di mutua ammirazione, Lawrence & Company. Ti ringrazio. Temo però di non meritarlo, il bel complimento che mi fai. Quello che volevo dirti è che, quando andavo perdendo tempo in Europa, vedevo tanti giovanotti pieni di talento fare ogni sorta di sacrificio e sopportare una vita veramente dura per poter realizzare il loro sogno. Magnifiche figure e certuni che lavorano come eroi, poveri e senza amici, ma tanto pieni di coraggio, di pazienza e di ambizione che io avevo vergogna di me stesso. E avrei voluto dar loro quella buona spinta di cui avevano bisogno. Aiutare le persone come quelle, ecco la vera soddisfazione. Se hanno del genio, è un onore, un privilegio render loro un servigio. e non permettere che quel genio naufraghi, si perda per mancanza di alimento. Se il vero genio non c'è, è sempre un piacere confortare un poveretto nel giorno della delusione e trattenerlo sull'orlo della disperazione. Sicuro, e c'è un altro genere di persone che l'aiuto non lo può domandare e soffre un silenzio. Io ne so qualche cosa, perché sono stata io stessa in quelle condizioni prima che tu facessi di me una principessa, come il re della fiaba fece con la mendicante. La vita di una ragazza ambiziosa è ben dura, sai, Lori. Veder passare la giovinezza, la salute, le belle occasioni solo perché non si ha un piccolo appoggio al momento giusto. La gente è stata assai buona con me e quando vedo una ragazza che lotta e tira innanzi come facevo io, vorrei poter intervenire e aiutarla come sono stata aiutata io. E lo farai da quell'angelo che sei, esclamò Lori e decise in uno slancio di zelo filantropico di fondare e mantenere una istituzione apposita per venire in aiuto alle ragazze dotate di attitudini artistiche. Chi è ricco non ha il diritto di stare a godersela o accumulare il denaro perché altri poi lo sciupino. Piuttosto che lasciare tanti legati quando si muore, è molto meglio, e cosa assai più giudiziosa, far buon uso della ricchezza finché si è vivi, aggiungendo un gusto più vivo ai piaceri che essa ci offre, col farne generosamente partecipi gli altri. Non ti piacerebbe di essere la piccola fata benefica, la donna dei fatti degli apostoli? E andare in giro vuotando il cesto dei benefici e riempiendolo di opere buone? Accetterò la parte con tutto il cuore se tu sarai San Martino, il bel cavaliere che galoppa glorioso per il mondo e tira le redini per fermarsi a dividere il mantello col povero. E i due giovani sposi, strettisi la mano, ripresero la passeggiata su e giù per il salone. In quel momento la casa parve loro anche più bella e più loro, perché pensavano alla possibilità di portare la luce in altre case. Il loro cammino sparso di rose sarebbe riuscito ancora più dolce avendo il modo di spianare la via ad altri. I loro cuori sarebbero più strettamente uniti perché l'amore che li legava consentiva loro di ricordare anche coloro che meno erano favoriti dalla sorte. Capitolo 22. Daisy e Demi. Riterrei di mancare al mio dovere di umile cronista della famiglia March se non dedicassi almeno un capitolo ai due membri più preziosi e più importanti di essa, Daisy ed Amy. Sono giunti ormai agli anni della discrezione, poiché in quest'epoca di movimento e di progresso i bambini di 3 o 4 anni affermano già i loro diritti e riescono a farli valere, cosa che non ottengono per lo più le persone grandi. Se mai vi furono al mondo due gemelli in pericolo di essere viziati senza rimedio dall'adorazione dei congiunti, furono i due piccoli Brooke. Erano, manco a dirlo, i due bimbi più straordinari del mondo. Basti dire che camminarono 8 mesi, parlarono correttamente a un anno e a due sedettero a tavola coi genitori, tenendovi un contegno che destava l'ammirazione di tutti. A 3 anni Daisy volle un nago e fece con le sue mani un vero sacchetto con ben 4 punti. Inoltre giocava a tenere la casa in ordine dentro una credenza e riuscì ad usare una minuscola cucinetta con tanta bravura che Anna pianse lacrime di commozione e di orgoglio. Intanto Demi imparava l'alfabeto sotto la guida del nonno, che inventò per lui un nuovo metodo di insegnamento, consistente nel formare le lettere con le braccia e con le gambe, ginnastica fisica e intellettuale riunite. Fin dalla più tenera età il maschietto si rivelò un genio per la meccanica, che era la gioia di suo padre e la disperazione di sua madre, perché voleva fare tutte le macchine che vedeva, e la camera dei bambini era sempre un caos. Con la manica da cucire, misteriosa combinazione di funicelle, seggiole, pinzette per biancheria e rocchetti vuoti, e con certe ruote che andavano tondo tondo. C'era pure, appeso al dorso di un seggiolone, un canestro nel quale Demi voleva sollevare Daisy. Alla mamma, accorsa per il salvataggio, il piccolo inventore obiettò indignato: Chetto, censole! Se non che qualche bernoccolo in fronte alla sorellina troppo fiduciosa e compiacente mostrava che il censole, invece, era disceso troppo in fretta. Diversissimi come carattere, i due gemelli però andavano abbastanza d'accordo, ossia raramente litigavano, più di 3 volte al giorno. Demi, già si intende, tiranneggiava Daisy e la difendeva bravamente da chiunque altro la toccasse. Daisy era la schiava del fratello e lo adorava come l'essere più perfetto del mondo. Daisy era una creatura rosea, paffuta, sorridente, che conquistava tutti i cuori e vi si impiantava da padrona. Era una di quelle bimbe irresistibili che sembrano fatte per essere baciate e carezzate, adornate e adorate come piccole divinità ed esposte all'ammirazione generale nelle grandi occasioni. E le sue virtù erano tali che avrebbero fatto di lei un angelo se qualche piccolo capriccio non l'avesse simpaticamente rivelata. Nel suo mondo regnava invariabilmente il sereno. Ogni mattina, nella lunga camicia da notte, si arrampicava alla finestra a guardare il tempo e, piovesse o splendesse il sole, dichiarava che era bello. Tutti per lei erano amici, a tutti voleva dare un bacio e lo faceva con tanta spontaneità da toccare il cuore anche allo scapolo più irriducibile e fargli così amare i bambini. Bene a tutti io, proclamò un giorno allargando le braccine col cucchiaio in una mano e la tazza nell'altra, come per abbracciare tutta l'umanità. Via via che Daisy cresceva, la sua mamma cominciò a pensare che il cielo avesse voluto benedire il suo nido col donargli un'anima bella, dolce e affettuosa al pari di quella che aveva rischiarato la sua casa paterna. Molte volte il nonno distrattamente la chiamava Beth e la nonna la guardava, la mirava con una devozione instancabile. Demi, davvero Yankee, faceva mille domande e voleva sapere tutto. Non di rado rimaneva molto male perché nessuno dava una risposta soddisfacente ai suoi continui perché. Aveva anche tendenze filosofiche, con gran piacere del nonno, che teneva con lui certi dialoghi socratici, nei quali il discepolo precoce metteva nell'imbarazzo il maestro, e allora le donne se la godevano, senza dissimularlo. Nonno, cos'è che fa camminare le mie gambe? Domandò una sera il piccolo pensatore guardandole dopo averle adoperate energicamente a saltare e a correre prima di essere messo a letto. «È la tua mente, Demi», rispose l'uomo sapiente accarezzando con rispetto la testina bionda. «Che cos'è la mente?» «È ciò che fa muovere la tua persona, come la molla del mio orologio fa andare le ruote. Ti ricordi quando l'ho aperto per farti vedere?» «Aprimi allora, voglio vedere anche lì.» «Oh, non si può.» Anche l'orologio è proibito vederlo. È il Signore che ti ha dato la carica e tu camminerai finché egli non ti fermerà. Sì? E Demi spalancò tanto d'occhi all'idea nuova che gli veniva rivelata. Io calicato come l'orologio? Sì, ma non ti posso far vedere come perché la carica viene data quando noi non vediamo. Demi si adagiò supino e tacque. Voleva sentire se gli davano la carica. Ma poco dopo osservò con gran serietà: Chiedo che Dio dà carica quando dormo. Seguì una spiegazione minuta. Il bimbo era così attento che la nonna si impensierì e disse al marito: Caro mio, non è pericoloso fare certi discorsi a un bambino di quell'età? Vedi come corruga la fronte? E che razza di domande si mette a fare? Domande alle quali non si sa come rispondere. Beh, se la sua età gli permette già di fare quelle domande, gli permette anche di udire le risposte. Io non gli metto in testa delle idee, lo aiuto a sviluppare quelle che già ci sono. I ragazzi ne sanno più di noi, e io sono sicuro che questo capisce tutto ciò che gli ho detto, fino all'ultima parola. Di un po', Demi, dove la tieni la tua mente? Se il bambino avesse risposto come Alcibiade, per gli dèi o Socrate, non te lo so dire, il nonno non se ne sarebbe stupito. Ma quando, dopo essere rimasto un minuto sopra un piede solo, come una giovane cicogna meditabonda, Demi rispose calmo e convinto: Nella pancia? Il nonno non poté a meno di ridere e la lezione di filosofia per quel giorno finì. Ci sarebbe stato da preoccuparsi di tanta intelligenza e riflessività se Demi non avesse anche mostrato chiaramente di essere, oltre che un filosofo in erba, anche un ragazzo come tanti altri. Tante volte, sentendo come discuteva, Anna profetizzava con un gesto di scongiuro: Quel bambino lì non ci sta molto a questo mondo. Ma i timori di Anna si dileguavano quando Demi se ne veniva fuori con qualcuna di quelle birichinate da monello, anche troppo sveglio, e magari male avvezzo e poco pulito, che fanno la disperazione e la delizia dei genitori. Meg gli predicava molto la morale e cercava di fargliela rispettare. Ma quando mai una madre seppe resistere alle graziose trovate, alle astuzie ingegnose, all'audacia tranquilla con la quale certi bambini si affermano sin da piccoli quali trasgressori nati di tutte le leggi? Basta l'uva per oggi, Demi, ti fa male, dice la mamma al piccolo volontario che con immancabile regolarità offre i suoi servigi in cucina nel giorno che si fa la torta con lo zibibbo. Vuoi un malale io? E io non voglio che ti ammali, su. Vai ad aiutare Daisy a fare biscotti salati. Demi se ne va a malincuore con la convinzione di avere ricevuto un torto e alla prima occasione torna per avere quella che a lui pare giustizia. E gira largo per vie tortuose, spiando il momento opportuno. Adesso che siete stati buoni, faccio tutto quello che volete, disse la mamma, conducendo di sopra i due piccoli assistenti cuochi. Davvero, mammina? Domanda Demi. Gli è balenata sotto i capelli bianchi di farina un'idea luminosa. Sicuro, faccio quello che volete, conferma imprudente la genitrice, preparandosi a raccontare più volte di seguito i tre micetti e a condurre fuori i due piccoli, qualunque tempo faccia, a vedere i burattini. Allora facci andare giù a mangiare tutto il gigibolo, conclude Demi logico e trionfante. La zia Dodo, ossia Jo, era la gran compagna di giochi e la gran confidente dei due gemelli. E fra tutti e tre mettevano sossopra la casetta. La zia Amy finora non era che un nome. La zia Beth ben presto divenne una memoria cara, sempre più vaga. Zia Dodo era invece una realtà vivente e con lei si divertivano più che con chiunque altro, distinzione di cui ella era loro gratissima. Ma con la comparsa del signor Baer, Joe cominciò a trascurarli, a giocare meno con loro, e per quelle due piccole anime fu una desolazione, una disperazione. Per Daisy, che girava il mondo offrendo e accettando baci e carezze, fu un fallimento. Demi, invece, con precoce intuito, si accorse ben presto che adesso la zia Dodo giocava più volentieri con l'uomo orso che con lui. Ne soffrì, ma non lo fece vedere. Non si fanno sgarberie ad un rivale quando il rivale ha una miniera di cioccolatini nelle tasche del panciotto e un orologio che si può tirar fuori quando si vuole per ammirarlo e maneggiarlo a piacer nostro. Un altro, al posto di Demi, avrebbe sospettato di tali larghezze e libertà, vedendovi sotto un tentativo di corruzione. Ma Demi non guardava le cose in questa luce e continuava a proteggere l'uomo orso con calcolata cortesia. Daisy poi si limitava a farsi chiamare da lui 3 volte prima di dargli retta, accettando le sue spalle come treno, il suo braccio come rifugio, i suoi doni come tesori inestimabili. Accade talvolta di vedere un signore preso da un attacco subitaneo di ammirazione per i giovanissimi congiunti di una signora o signorina che il detto signore guarda con insistenza. Generalmente in tali dimostrazioni d'amore per i bambini si nota qualche cosa di forzato, di stentato, e nessuno ci crede. Ma nel caso del signor Baer la devozione era sincera e perciò efficace. La sincerità è sempre la politica migliore, sia nell'amore che nella vita pubblica. E Baer era uno di quegli uomini che fra i bambini si trovano a loro agio. Il contrasto fra i suoi lineamenti maschi e i visetti sorridenti dei bimbi era assai piacevole. Passavano i giorni e quel tale affare misterioso che lo tratteneva non accennava a finire. Ma ben poche erano le sere in cui non compariva chiedendo di vedere, ecco, lui diceva sempre signor March. Si deve pertanto supporre che fosse il signor March che lo attirava. L'ottimo papà si illudeva che così fosse e si abbandonava a discussioni interminabili con quello spirito affine al suo, finché un'osservazione casuale del nipotino, osservatore accorto, lo illuminò. Una sera il signor Baer, giungendo, si arrestò sulla soglia dello studio, ammirato dalla scena che gli si offriva. Il signor March era sdraiato sul pavimento con le rispettabili gambe levate in alto. Accanto a lui, Demi cercava di imitarlo con le sue gambine inguainate nelle calzette rosse. Ambedue erano serissimi e talmente assorti che non si accorsero che entrava gente, se non quando udirono la risata sonora di Baer. Joe esclamò scandalizzata: «Papà, papà, il professore!» I pantaloni neri si abbassarono e la barba grigia si levò da terra, mentre il signor March diceva, senza scomporsi: Buonasera, signor Baer. Scusatemi un momento, stavo proprio terminando la lezione. Demi, fa vedere ancora quella lettera e dimmi che lettera è. La so!» esclama il piccolo intelligente allievo. E con uno sforzo eroico riesce a disporre le gambe come quelle di un compasso e grida trionfante: «È un doppio Vunon!» «È un Weller nato e sputato», osserva Joe, ammirando nel nipote l'intelligenza pronta e ridendo della sua pronuncia dialettale, degne entrambe dell'immortale scudiere di Mr. Pickwick. Il nonno intanto si rimette in piedi, mentre Demi tenta di mantenersi in equilibrio sulla testa con le gambe levate. È il suo modo di esprimere l'esultanza per la lezione terminata. «Dove sei stato oggi, Bübchen?» gli domanda Mr. Baer, aiutandolo a rialzarsi. «Sono nottato da piccola Mary.» «E là cosa hai fatto?» «Baciato piccola Mary?» dice Demi con la massima naturalezza. «Vergogna! Cominci presto!» «E la piccola Mary che cosa ha detto?» domanda il professore, continuando la confessione del piccolo peccatore che gli siede sopra un ginocchio, esplorandogli le tasche del panciotto. «Non lei contenta? Lei pure ha baciato me! Bello, bello!» dice Demi e aggiunge poi: «Non si baciano sempre le ragazzine e i ragazzini?» «Ma sentilo, a quell'età!» esclama Joe, godendosela un mondo, come il professore alle ingenue rivelazioni di Demi. «Chi te le mette in testa certe cose?» «No, testa, bocca!» rettifica Demi, mostrando la lingua impiastricciata di cioccolata e credendosi tratti di dolci, non di idee. «Perché non ne lasci un po' alla tua piccola amica qui?» gli chiede il professore. «Dolci alle creature dolci, mio bello mino!» E intanto ne offre lui stesso un poco a Joe, con uno sguardo, con un sorriso, che le fa pensare se il nettare onde si nutrivano gli dèi non fosse cioccolata. Lo sguardo e il sorriso non sfuggono ad Amy, che ne rimane molto impressionato e domanda ingenuamente: «I ragazzi grandi baciano ragazze grandi?» Al pari di Washington fanciullo, Mr. Byer era incapace di dire una bugia e rispose, alquanto vagamente, che credeva di sì, qualche volta, in tono tale che il signor March posò la spazzola con la quale si rimetteva in ordine dopo la lezione acrobatica, guardò in volto Joe che chinava il capo e cadde a sedere nel proprio seggiolone con un'aria tale da far pensare che il precoce nipotino l'avesse messa in testa a lui, un'idea dolce e aspra d'un tempo. Perché poi la zia Dodo, ossia Joe, un'ora dopo, quando trovò il nipotino nella dispensa in attitudine più che sospetta, invece di rimproverarlo, lo abbracciò stretto da levargli il respiro. E non fu questa la sola cosa inaspettata, giacché gli regalò per giunta una gran fetta di pane ben coperta di marmellata. Il perché di questi avvenimenti straordinari rimase un enigma insolubile per la piccola mente di Demi, il quale rinunziò a capirci qualche cosa. Capitolo 23. Sotto l'ombrello. Mentre Lori ed Amy procedevano abbracciati sul tappeto magico, mettevano in ordine la casa e progettavano un avvenire di felicità, il professor Baer e Joe facevano liete passeggiate di vario genere per strade fangose e per campi. «La passeggiata verso sera», pensava Joe, «io ho l'abitudine di farla sempre. Non vedo perché ci dovrei rinunziare ora, soltanto perché per caso ci incontriamo col professore». L'incontro era avvenuto 2 o 3 volte. Le strade per andare da Meg erano 2, ma Joe, qualunque delle 2 prendesse, incontrava infallibilmente lui che usciva o che rientrava. Egli camminava svelto e pareva che non si accorgesse della presenza di lei se non quando erano ben vicini. Allora si capiva che, essendo miope, non la riconoscesse che all'ultimo momento. E se lei andava da Meg, egli aveva ogni volta qualche cosa da portare ai bambini. Se invece lei stava tornando a casa, egli dichiarava di essere uscito a fare 2 passi giù verso il fiume e stava appunto per tornare indietro, a meno che non fossero stanchi delle sue frequenti visite. Stando così le cose, che poteva fare Joe se non salutarlo cortesemente e invitarlo a entrare? Se quelle visite le erano venute a noia, lo nascondeva molto bene e provvedeva affinché in casa non mancasse il caffè, perché a Federico, al signor Baer, voleva dire, il tè non piaceva. Dopo 2 settimane tutti sapevano perfettamente ciò che stava succedendo, tuttavia tutti si davano l'aria di non vedere il mutamento che c'era nel volto di Joe. Nessuno chiedeva perché nel fare le sue faccende la cantasse e perché si pettinasse 3 volte al giorno e perché quelle passeggiate serali le facevano tanto bene. Nessuno pareva sospettare neanche lontanamente che il professor Baer, mentre col padre parlava di filosofia, Alla figliuola desse invece lezioni d'amore. Joe non era nemmeno capace di perdere la testa come fan tutte. Lottava per far tacere i suoi sentimenti e, siccome non ci riusciva, la sua vita era piuttosto agitata. La sua gran paura era che la gente ridesse di lei perché era cascata dopo tutte le sue ripetute e vibrate dichiarazioni di indipendenza. Soprattutto di Lori aveva timore, ma grazie al nuovo direttore egli si conduceva con lodevole correttezza. Quando parlava del professore in pubblico non lo chiamava mai un asso, non faceva allusioni neanche lontanissime all'aspetto migliorato di Joe, non mostrava la minima sorpresa nel trovare quasi ogni sera il cappello di Baer sull'attaccapanni in camera, ma in cuor suo gongolava e non vedeva l'ora di poter offrire in dono a Joe un piatto d'argento con sopra inciso, stemma appropriatissimo, un orso e un nodoso bastone. Per 2 settimane il professore comparve con la regolarità di un innamorato. Poi, per 3 giorni, non fu veduto. Non diede segno di vita. E tutti si fecero seri. Anche Joe, pensosa sulle prime, divenne ben presto, addio poesia, intrattabile. Chissà, pensava, si è seccato forse, ed è ripartito così come era venuto. Non me ne importa niente, si intende, ma mi pare che avrebbe dovuto venirci a salutare, come un gentiluomo. E con uno sguardo disperato interrogava il cancello mentre si vestiva per la solita passeggiata in un pomeriggio triste e nuvoloso. Prendi l'ombrello, ha voglia di piovere, le disse la madre, vedendo che si era messa il cappello nuovo, ma senza alludere a questo. Sì, mammina, ti occorre qualcosa in città? Devo fare una corsa per comprare un po' di carta, disse Joe, annodandosi il nastro sotto il mento davanti allo specchio. Evitava così di guardare la madre. Eh sì, mi occorrerebbe un po' di cotonina bianca diagonale, una bustina d'aghi numero 9 e 2 iarde di nastrino color lavanda. Ti sei messa le scarpe alte? E qualcosa sotto per tenerti calda? Mi pare di sì, rispose Joe distratta. Se incontri il signor Baer, conducilo a prendere il tè. Sarei molto contenta di vederlo, quel caro professore, aggiunse la signora March. Joe udì, ma non rispose. Diede un bacio alla mamma e uscì in fretta. Le doleva il capo, ma ella pensava con gratitudine alla madre. Quanto è buona. Come faranno tante povere ragazze che non hanno la madre a superare certe amarezze? Le botteghe dove Joe doveva recarsi non erano lontane. Verso il quartiere degli uffici, delle banche, dei magazzini, dove la popolazione era quasi tutta maschile. Ma Joe aveva già oltrepassato di molto quelle botteghe, non aveva ancora fatto una sola compera. Camminava come se aspettasse qualcuno, esaminando ora una vetrina di strumenti di precisione, ora certi campioni di lana. La sua curiosità non pareva fosse per gli articoli che generalmente interessano le donne. Inciampava in un barile, rischiava di trovarsi presa sotto qualche balla che cadeva dall'alto, gli uomini la urtavano senza complimenti e poi la guardavano con l'aria di domandarle come diavolo era capitata là. Una goccia di pioggia che le colpì una guancia richiamò il suo pensiero dalle speranze deluse al nastro rovinato, perché a quella goccia altre ne seguirono, sempre più fitte. Innamorata, Madonna, pensò che era tardi per salvare il cuore, ma non per mettere a riparo il cappello nuovo. Si ricordò dell'ombrello consigliato da sua madre e che nella fretta di uscire ella aveva dimenticato di prendere. Ma adesso i rimpianti non servivano. O trovarne un in prestito o pigliarla come veniva giù. Guardò il cielo, che era coperto di nuvole basse, gettò un'occhiata al nastro del cappello già coperto di macchie scure, un'altra alla strada ormai fangosa, e una più lunga, indietro, a un certo magazzino di aspetto poco allegro, con la scritta Hoffmann, Schwartz e Co. E disse fra sé in tono di rimprovero: «Mi sta bene. Che bisogno c'era di mettermi indosso la roba migliore e venire da queste parti a farla stupida nella speranza di vederlo?» Vergognati, Joe. No, tu adesso non ci andrai là dentro con la scusa di cercare un ombrello in prestito, ma in realtà per scoprire dai discorsi dei suoi amici dov'è lui. Tu devi guazzare coi piedi nella fanghiglia e sbrigare le tue faccende sotto la pioggia, e se ti prendi un malanno che ti porta all'altro mondo e ti rovini il cappello nuovo, te lo sei meritato. Ecco. Detto ciò, ella attraversò la strada di corsa e per poco non finì sotto un carro, andando infine a sbattere fra le braccia di un vecchio signore importante che le disse: «Scusate, signora, ma con una faccia mortalmente offesa. Calmata un poco dall'incidente, Joe si orientò, coperse con un fazzoletto il nastro in pericolo, scacciò la tentazione di prima e tirò innanzi sotto la pioggia sempre più fitta, con l'acqua fino alle caviglie, fra un gran tambureggiare di goccioloni sugli ombrelli aperti dei passanti. Ma di chi era quello azzurro e alquanto mal ridotto che l'accompagnava insistente e cercava invano di proteggere il suo povero cappello? Joe abbassò gli occhi. La mano che stringeva il parapioggia era quella del professor Baer. Mi pareva bene di conoscerla, questa donna intrepida che va in giro sotto il diluvio e in questa fiumana di fango. Che fate mai da queste parti, amica mia? Baer sorrise e guardò la fabbrica di conserve a destra e la conceria a sinistra, ma non fece commenti. Soltanto disse: Voi siete senza ombrello. Permettete che vi accompagni e vi porti gli involti? Sì, grazie. Il volto di Joe era rosso quanto il nastro del cappello ed ella pensava: Cosa dirà di me? Ma non gliene importava. Eccola avviata al braccio del professore, con la sensazione che d'un tratto fosse tornato il sole e tutto nel mondo andasse bene ora, e che in quella giornata piovosa non ci fosse in tutto il creato che una sola donna felice, quella che pestava il fango e tirava innanzi trionfante con le scarpe di Joe. Credevamo foste partito. Si affrettò ella a dire, sentendosi addosso lo sguardo di lui e temendo di non riuscire a nascondere la gioia che provava, sconveniente per una signorina. E potevate credere che sarei andato via senza un saluto alle persone che hanno avuto una bontà così angelica per me? Domandò egli in tono di rimprovero. Le parve di averlo insultato con la sua supposizione e rispose con calma. Io no, io sapevo che eravate preso dalle vostre faccende. Ma in casa sentivano un po' la vostra mancanza, specialmente il babbo e la mamma. E voi? Io sono sempre contenta di vedervi, signor Baer. Preoccupata di parlare con un tono calmo, Joe riuscì quasi fredda. Quel signor Baer agghiacciò il professore. Scomparve dalle sue labbra il sorriso e disse molto serio: Vi ringrazio, vi farò ancora una visita prima di partire. Partite davvero dunque? Non ho più nulla da fare qui, le mie faccende le ho sbrigate. Sono andate bene? Disse Joe con tutta l'amarezza che le dava quella spiegazione. Devo credere di sì. Mi sono aperto una via che mi permetterà di guadagnarmi il pane e di aiutare di più i miei due piccini. Oh, raccontatemi, ve ne prego. Mi interessa ciò che riguarda i piccini, disse Joe con premura. Ben gentile, ve lo dirò volentieri. I miei amici mi troveranno impiego in una scuola dove farò lezione come facevo in Germania, guadagnando quanto occorre per spianare l'inizio della vita a Franz e ad Emil. Non devo ringraziare il cielo? Sicuro, sapere che attendete al lavoro che vi piace e potervi vedere spesso, voi e i ragazzi, esclamò Joe attaccandosi prontamente ai ragazzi come attenuante per giustificare la contentezza che non riusciva a nascondere. Ah! Ma non ci vedremo spesso, temo. La residenza è lontana, negli stati di Occidente. Così lontano? Esclamò Joe, abbandonando al suo destino la gonna finora tenuta su con una mano. Cosa importava più adesso ciò che avveniva delle sue vesti, di lei stessa? Il professor Baer capiva diverse lingue, ma le donne ancora non aveva imparato a capirle. Egli si lusingava di conoscerla abbastanza e perciò rimase molto stupito dalle contrazioni nella voce, nel volto, nelle maniere di lei che vide succedersi quel giorno. Ella passò rapidamente in mezz'ora per 10 stati d'animo diversi. Prima la sorpresa di incontrarlo, sebbene fosse impossibile non sospettare che era andata apposta da quella parte. Quando egli le offerse il braccio, lei lo prese con uno sguardo che lo riempì di gioia. Ma quando domandatole se sentiva la sua mancanza, ella non diede che quella risposta così breve, corretta e fredda, lo invase la disperazione. All'annuncio della riuscita del suo affare, ella quasi batté le mani. Era solo per via dei ragazzi, tanta letizia. Subito dopo, apprendendo che la destinazione era distante, ella esclamò: Così lontano? E allora fu lei a essere disperata e lui contento. Ma un momento dopo, ella lo precipitava di nuovo in fondo all'abisso perché annunziò, come se null'altro, le premesse. E qui sono le commissioni che ho da fare. Entrate con me, non ci metterò tanto. Joe era orgogliosa, anziché no, della sua bravura a sbrigare le commissioni e ci teneva in modo particolare a mostrare al suo cavaliere la sua precisione e prontezza. Ma quel giorno, con quell'agitazione, tutto le andò di traverso. Rovesciò il vassoio degli aghi, dimenticò che la cotonina doveva essere diagonale e se ne accorse solo quando era già tagliata e involtata quella liscia. Sbagliò nel prendere il resto e con sua gran vergogna si accorse di avere domandato il nastrino color lavanda al banco dei calicò. Il professore le stava accanto, testimonio di tanti errori e rossori, spettacolo che lo fece riflettere e lo calmò. Cominciava ad accorgersi che in certe occasioni le donne, come i sogni, sono piene di confusione e di contraddizioni. Quando uscirono ed egli si pose sotto il braccio il pacco, il suo volto appariva più rasserenato e i suoi piedi guazzavano nelle pozzanghere con entusiasmo. Tutto sommato ci trovava gusto, si sarebbe detto. Che ne direste se ora facessimo un po' di shopping come dite voi? Un po' di negozi per i piccoli? Non sarebbe bella per l'ultima visita una festicciola di addio alla vostra così piacevole casa? Domandò il professore, arrotondando il finale del periodo nella costruzione tedesca, come gli accadeva spesso. Si erano fermati a una vetrina di frutta e di fiori. Che cosa prendiamo? Chiese Joe, senza rispondere al complimento e sorridendo con un po' di affettazione all'ondata di profumi che l'accolse nell'ingresso. Arance? Fichi? Domandò il professore paterno. Piacciono molto ai piccoli. E le noci le mangiate voi? Come uno scoiattolo. Spremuta d'uva di Amburgo, sicuro, per brindare alla patria? A questa spesa pazza ella arricciò il naso e gli domandò perché non comprava addirittura un cesto di datteri, un barile di uva secca e un sacco di mandorle, visto che ci si era messo. Allora il signor Baer si mise in tasca la borsa di lei, tirò fuori la propria e finì per comprare qualche libra di uva, un vaso di margherite e un grazioso barattolo di miele. Bello in trasparenza, come un fiaschetto di topazio liquido. Con le tasche gonfie e tutte a bernoccoli, le diede da tenere i fiori e aprì il suo ombrello. Così proseguirono. Miss March, io ho un gran favore da domandarvi, cominciò il professore quando ebbero percorso un mezzo isolato di case sotto il diluvio. Dite pure. E il cuore di Joe cominciò a battere così forte che la temeva si udisse. Mi permetto di parlare malgrado questa pioggia perché il tempo che mi rimane è poco. Dite pure, ripeté Joe, e per poco non schiacciò il vasetto dei fiori con la stretta nervosa della mano. Vorrei acquistare una vesticciuola per la Tina e non mi fido di sceglierla io. Non me ne intendo, mi volete aiutare voi col vostro buon gusto? Sì, signore, disse Joe, tornando calma e fredda in un istante come fosse entrata in una ghiacciaia. Forse anche uno scialle per la madre di Tina. È povera, è malata e quel marito le dà tanto pensiero. Sì, uno scialle pesante, ben caldo. Sarebbe un regalo adatto per quella giovane mamma. Ben volentieri, signor Baer. E fra sé, come si cammina. E ogni minuto gli voglio più bene. Ma si riscosse pronta e tornò a occuparsi delle loro faccende con un impegno che era un piacere vederla. Il professore la lasciò fare e la scelse un bel vestito per Tina e poi chiese di vedere gli scialli. Il commesso, che evidentemente era ammogliato, mostrava molta premura nel servire quei due clienti che avevano tutta l'aria di essere marito e moglie. Forse la signora preferirà questo? Articolo superiore, tinta bellissima, modesto e grazioso. Lo scialle, che sventolava in quel momento, era largo, grigio e indosso a Joe figurava assai bene. Vi andrebbe, signor Baer? Ella domandò, voltando le spalle al professore per fargli vedere l'effetto, lieta in realtà del pretesto per non mostrargli il volto. Magnifico, prendiamolo! Egli rispose e sorridendo pagò. Mentre Joe seguitava a curiosare per i vari banchi con l'aria di chi cerca qualche occasione. Ora andiamo a casa? Egli domandò. Pronunciare quelle parole gli dava un piacere. Sì, è tardi e sono stanca. Il tono di Joe si era fatto più triste, come se il sole, messosi prima a splendere di botto si fosse oscurato. Il mondo tornava fangoso e brutto. Joe si accorgeva adesso di avere i piedi freddi e il mal di capo, e più freddo dei piedi si sentiva il cuore, e più dolente il capo. Mr. Byers se ne andava e le voleva bene soltanto come ad un'amica. C'era stato un malinteso e prima finiva, meglio era. Con tale idea in mente, Joe fermò un omnibus che passava con un gesto così frettoloso che le margheritine volarono via dal vasetto, sciupandosi malamente. «Non è il nostro omnibus», disse il professore, facendo segno al conducente che proseguisse. E poi si diede a raccattare quei poveri fiori. «Scusatemi, avevo veduto male il nome. Non importa, andrò a piedi, ci sono avvezza a camminare nel fango io». Joe batteva le palpebre forte perché avrebbe voluto morire piuttosto che farsi vedere ad asciugare le lacrime. Ma Baer gliele vide scendere lungo le gote, sebbene ella evitasse di guardarlo. Quella vista lo commosse molto. Si chinò su di lei e le chiese, con un tono che voleva dire tante cose: «O diletta del mio cuore, perché piangete?» Se Joe non fosse stata nuova a queste cose, avrebbe sostenuto che lei non piangeva affatto, che aveva il raffreddore, e invece, da quella creatura ingenua e spontanea che era, rispose con un singhiozzo che non seppe frenare: «Perché voi andate via?» «Ach, mein Gott! Come fa pene sentirsi così!» esclamò Mr. Baer, che riuscì a giungere le mani malgrado l'impaccio dell'ombrello e degli involti. «Joe, io non ho da darvi che tanto amore. Ero venuto qui per vedere se lo accettavate, se per voi ero qualcosa di più che un amico. Ci sono riuscito. Potete fare un po' di posto nel vostro cuore al vecchio Fritz?» Fritz parlava tutto d'un fiato. «Oh sì, oh sì!» disse Joe. Egli fu contento. Joe gli afferrò il braccio con ambo le mani, levando gli occhi nei suoi con un'espressione che mostrava chiaramente che ella sarebbe stata felice di percorrere il cammino della vita al suo fianco, anche senza altro riparo sopra la testa che un vecchio ombrello, ma ci fosse lui a portarlo. Fu una dichiarazione d'amore in circostanze particolarmente difficili. Anche volendo, il professore non avrebbe potuto mettersi in ginocchio per causa del fango, e la sua mano a Joe non la poteva offrire se non metaforicamente, perché le mani le aveva occupate ambedue. Per quanto la sua indole fosse aliena dalle dimostrazioni in genere, poco ci mancò che non si abbandonasse a gesti di tenerezza sulla pubblica strada. Ma l'unica maniera con la quale egli manifestò il suo trasporto consisté nel guardare Joe con un'espressione che gli illuminava il volto a un punto tale che le goccioline che gli imperlavano la barba pareva dovessero formargli un'aureola, un arcobaleno. Se non avesse amato tanto Joe, è da credere che non si sarebbe dichiarato in quel momento, giacché ella era tutt'altro che seducente, con la gonna in uno stato deplorevole, gli stivali di gomma infangati fino a metà altezza e il cappello ridotto a una rovina. Fortunatamente, per il professore, Joe era la donna più bella del mondo. E lei da parte sua vedeva in lui più che mai un Giove olimpico, malgrado le falde cadenti del cappello che gli colavano rivoletti d'acqua sulle spalle, poiché con l'ombrello stava riparando Joe, e sebbene non ci fosse nei suoi guanti un dito solo che non avesse bisogno di qualche punto.